l'altra Europa. 7 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia in diretta su Radio 24 con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità, delle opportunità. Un'altra Europa oltre a quella che viene narrata, lo sapete, l'attualità politica ed economica viene raccontata giorno per giorno da Radio 24, sempre in collaborazione con Euronet Plus. Noi il sabato cerchiamo così di mettere al centro altri protagonisti e altre storie di questa Europa. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu, il portale che raccoglie tante storie, tante reportage, tante notizie in tante lingue diverse, oppure radio24.it, da dove poter poi riascoltare la puntata e trovare tutte le tracce relative agli argomenti che andremo a toccare, link invece che inseriamo in diretta, in tempo reale, sulle nostre bacheche digitali, Facebook e Twitter, gli indirizzi @euronetplusr24, oppure il mio account personale @FedericoTaddia. Ok, ora sapete tutto, quindi si può partire. Oggi partiamo da una cipolla. Una cipolla bianca, è la cipolla bianca di Margherita ed è il collante che lega questa settimana l'Europa con la Puglia, grazie a un riconoscimento importante a questo prodotto, la cipolla bianca di Margherita, che è stata definita dalla Commissione Europea, è stata inserita nella tutela comunitaria IGP, indicazione geografica protetta. Qual è il significato di questo riconoscimento? Lo chiediamo a Gianni Cantele, presidente della Coldiretti Puglia. Buongiorno Gianni, benvenuto all'Altra Europa. Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Da dove partiamo? Buongiorno. Dalla cipolla o dal riconoscimento? Anche se è difficile scindere oggi questi due elementi. Dai, facci una descrizione rapida del prodotto. Che cos'è la cipolla bianca di Margherita? Direi innanzitutto, se mi consenti un momento di campanilismo, è innanzitutto una cipolla che viene da una bellissima, una grandissima regione agricola italiana che è la Puglia. Certo. Questa è una cipolla particolare, quindi che ha avuto appunto proprio recentemente questo riconoscimento IGP, cresce, viene allevata e coltivata nei comuni di Margherita e Savoia, da cui prende il nome, ma anche Zapponeta e Manfredonia, ed è molto particolare perché è una cipolla innanzitutto bianca, è una cipolla molto precoce e quindi ce la ritroviamo sul mercato in un contesto in cui praticamente solo cipolle estere sono sul mercato, e questo significa che sono cipolle che arrivano dall'altra parte del mondo proprio per una questione di stagionalità, e quindi ci troviamo di fronte a una cipolla 100% italiana e una cipolla con caratteristiche molto particolari, con contenuto di zucchero piuttosto elevato e soprattutto a livello di profumo è un profumo meno pungente, molto succulenta, e quindi è adattissima per il consumo sicuramente fresco ma anche a crudo, quindi viene utilizzata molto anche per le insalate, proprio perché è molto gradevole come sapore. Certo, ricordiamo che l'acronimo IGP indica un marchio di origine che viene attribuito dall'Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, si parla quindi di reputazione, di caratteristiche, dipende principalmente dall'origine geografica e dal ciclo produttivo, dalla filiera produttiva. Certo. Che significato ha per un prodotto avere questo marchio? Beh, innanzitutto significa entrare in un ambito in cui la distintività è ancora maggiore, no? Perché qui non parliamo di una cipolla qualsiasi, ma di una cipolla che viene da una specifica zona, ma che soprattutto deve essere coltivata seguendo un preciso disciplinare di produzione che prevede il trapianto a mano, la raccolta manuale, il confezionamento anche in loco che è sostanzialmente necessario anche perché è una cipolla estremamente delicata. Quindi il fatto che abbia avuto un riconoscimento IGP significa che questa cipolla ha delle caratteristiche assolutamente specifiche e che soprattutto la ricollegano a un territorio ben distinto, che è appunto questa zona ai piedi del Gargano, e che soprattutto cresce in un in terreni che sono sabbiosi, sono proprio gli arenili di quella zona, e quindi proprio questa è la caratteristica dei terreni sabbiosi che consente di avere la tipica forma perfettamente regolare, un po' schiacciata, e soprattutto di poter avere questa cipolla che, non essendo protetta da quelle che sono le classiche foglie che noi vediamo nelle cipolle bionde o le cipolle rosse, ne danno proprio questa, altrimenti non potrebbe essere coltivata. Certo. E ripeto, soprattutto proprio a questa, si infila nella catena del fresco, no? nel momento del fresco, proprio nel periodo primavera inizio estate, in cui, se vogliamo mangiare prodotto italiano, questa è la soluzione perfetta. Gianni, credo che la cipolla sia il quinto prodotto pugliese che riesce a ottenere questa, che è iscritto nel registro europeo delle denominazioni d'origine DOP e delle indicazioni geografiche IGP, scusami, mi ero perso tra le sigle. Un marchio di questo tipo fa la differenza? Io credo che sotto questo aspetto tutto dipende anche dalla comunicazione che se ne fa, dalla capacità di voler promuovere le caratteristiche peculiari di un prodotto, perché è chiaro che il marchio da solo non può bastare. Certamente nell'ottica oggi, da parte anche del consumatore, di una maggiore attenzione a quello che si mangia, ma soprattutto all'origine dei prodotti, il fatto di poter facilmente collocare il prodotto che si sta andando ad acquistare, in questo caso potrebbe essere nei supermercati, ma anche nei mercati, nei farmer markets, no? Sì. Diretti a Campagna Amica, no? hanno creato questo tipo di ulteriore modo di avvicinare il produttore al consumatore. Quindi è chiaro che in quel caso il marchio IGP ha una sua valenza molto importante. DOP, lineetta igp.eu, questo è il portale dei prodotti DOP e IGP per avere maggiori informazioni e conoscere anche l'intero elenco dei prodotti. Grazie davvero a Gianni Cantele, presidente della Coldiretti Puglia, buon lavoro. Grazie a voi, grazie Federico. Adesso un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Milano per Dante. Quest'anno si celebra il 750° anniversario della nascita di Dante e per l'occasione l'associazione Fior di Loto Onlus, in collaborazione con la città di Milano e il patrocinio della Commissione Europea, organizza un'imperdibile maratona letteraria. Il 25 ottobre, dalle 10:30 del mattino fino a notte fonda, 100 milanesi illustri si daranno appuntamento al numero 10 di Corso Como e si succederanno alla lettura della Divina Commedia. Saranno scrittori, poeti, artisti, musicisti, attori, scienziati, filosofi e librai legati alla città di Milano, per nascita o per adozione. Per tutti i dettagli visitate la sezione eventi del sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ec.europa.eu. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento l'altra Europa. Scenico internazionale, l'obiettivo è quello di valorizzare i migliori business model in termini di innovazione, comunità, sviluppo e potenziale di mercato. I protagonisti sono studenti e alunni che in passato hanno partecipato a un programma di scambio internazionale finanziato dall'Unione Europea. Queste un po' le caratteristiche, questo è l'identikit di Realize It, quello che sta accadendo in questi due giorni a Berlino. Ne parliamo con Nicola Filizzola, vicepresidente affari europei di Gras Erasmus. Ciao Nicola, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a voi. Un incubatore per giovani imprenditori, questo è Realize It? Esattamente, Realize It, lo dice la parola stesso, realizzalo, è un incubatore di impresa che si rivolge alla generazione Erasmus, quindi quella generazione che in Europa è una generazione per antonomasia mobile, internazionale, e che ormai da 20 anni ha prodotto una nuova generazione di europei in qualche modo. Parliamo di 3 milioni di persone, una generazione che sarà che diventerà una generazione di 5 milioni di persone nel 2020, e si tratta di un'iniziativa sullo stile di Startup Weekend, se vogliamo, nel senso che nel corso di 6 mesi abbiamo selezionato le migliori idee progettuali con una migliore potenziale sui mercati europei e internazionali, e li abbiamo portati a Berlino con lo scopo di offrire loro degli strumenti educativi di impresa. Ci siamo resi conto di fatto che questo tipo di persone, che parliamo di persone che hanno all'incirca tra i 20 e i 42 anni, sono delle persone in Europa un pochettino diverse. E infatti, perché è questa la domanda, vi rivolgete a un target molto particolare perché sapete che, cioè, vi piace vincere facile, tra virgolette, e come battuta, sapete che lì c'è un potenziale, c'è un potenziale maggiore, c'è un potenziale che ha caratteristiche comunque vicine a quello che l'Europa chiede? Sì, esattamente, noi di Garage Erasmus per primi ci siamo resi conto di questa cosa, ovvero a tutte queste persone, per via della loro esperienza di mobilità internazionale, si caratterizzano per un'inclinazione maggiore al rischio, per esempio. Questa inclinazione maggiore al rischio si traduce molto spesso in una volontà di creare impresa, quindi in una volontà di creare il proprio lavoro. E abbiamo notato infatti che ci sono delle risposte molto interessanti, molto concrete, e quello che diciamo in inglese poi viene chiamato success rate, quindi il potenziale di successo di queste idee, è molto più alto, molto più elevato rispetto a coloro che magari non hanno avuto questa opportunità o questo tipo di esperienza. Questo è il progetto sulla carta, poi di fatto in questi due giorni cosa avete visto? Cosa sta succedendo? Ma di fatto, come dicevo prima, c'è stato questi due giorni, è soltanto la finale di un processo abbastanza lungo, che è durato all'incirca 5-6 mesi, un processo attraverso il quale abbiamo selezionato le idee imprenditoriale sulla base di alcuni criteri, come diceva lei all'inizio, il livello di innovazione in termini tecnologico, per esempio, e di innovazione di social innovation, il livello di qualità rispetto alle integrazioni che potevano proporre e le reali prospettive di mercato. Infine, quindi, per esempio, oggi vediamo qua imprese che propongono la produzione di scarpe di alta gamma di comfort per mercati inesplorati come quello asiatico, piuttosto che un'impresa che sta sviluppando sistemi di purificazione per l'acqua di basso costo per gli slum o le favelas in paesi in via di sviluppo, o piuttosto un'altra idea di impresa in Messico, che è una sorta di mini campus post scolastico per aiutare i giovani a rischio attraverso attività cosiddette STEM, quindi attività legate alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria, alla matematica. Certo. E cosa facciamo? In questi due giorni cerchiamo di offrire loro una tipologia di attività bicefala, quindi se da un certo punto, da un certo lato offriamo strumenti educativi, quindi come dare vita a un'impresa da zero, trovare finanziamenti a livello internazionale che non siano soltanto i soliti classici finanziamenti pubblici, ma piuttosto quel tipo di finanziamento di rischio più corposo e più confacente a un'impresa che cerca di scalare sui mercati internazionali, un'individuazione del giusto mercato, come fare il proprio marketing, e infine spieghiamo anche loro come fare un pitch, quindi una presentazione davanti a un potenziale investitore che è fatto di vari ingredienti, non soltanto di quello che la propria impresa realmente possiede, i propri potenziali, ma anche fatto di tutte quelle capacità espositive, quindi certo, dialettiche, che sono necessarie nei confronti di questo tipo di persone. Contenuto e comunicazione. Garaserasmus.org per conoscere meglio le attività proposte, oppure www.realizeit.org per conoscere nei dettagli il progetto. Grazie davvero a Nicola, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Europost-it. L'Europa a dialogo con i cittadini di Roma. La rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza un incontro al Teatro Argentina di Roma, aperto alla cittadinanza, sui temi di istruzione, educazione e cultura. Saranno ospiti della giornata Tibor Novracic, commissario europeo per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, e Stefania Giannini, ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca. L'evento si svolgerà il prossimo 28 ottobre a partire dalle 11.30. Per tutti i dettagli cercate Dialogo con i cittadini su istruzione, cultura ed educazione alla cittadinanza nella sezione eventi del sito della rappresentanza ec.europa.eu. I try to work, you know, in my province. So in my province we organize meetings with teachers. During the meetings we explain what e-learning is about, how to work, how to prepare a good project, and we also teach and show teachers how to use TwinSpace and desktop. In the Czech Republic we try to organize events for them. Sono voci di insegnanti, di professori, di docenti, quelle che state ascoltando. Da Berlino ci spostiamo a Bruxelles per seguire un altro evento in diretta. Sono infatti 500 docenti provenienti da tutta Europa che in queste ore, in questi giorni, si sono radunati a Bruxelles per fare un punto sui processi di innovazione supportati dalle iniziative di eTwinning, la piattaforma europea di gemellaggi digitali. Per capire anche qui quello che sta accadendo in tempo reale, ci colleghiamo con Massimiliano D'Innocenzo dell'unità nazionale eTwinning Indire. Ciao Massimiliano, ben ritrovato all'Altra Europa. Ciao, ben trovati a voi e un saluto a tutti. So che stavi lavorando, ti abbiamo chiesto appunto. Siamo proprio nella plenaria finale, conclusiva. Mm-hmm. E due giorni di lavoro sono stati intensi. Per la prima volta stiamo ascoltando degli ex alunni di progetti europei e Twinning che ci raccontano come lavorare all'interno della scuola in un progetto europeo abbia cambiato la loro vita ora che sono nel mondo del lavoro, quindi una testimonianza davvero interessante. E abbiamo parlato poco fa di ex Erasmus, quindi progetti di mobilità, anche i vostri di fatto è una mobilità più virtuale, ma che attiva conoscenze, contaminazioni, contenuti, ed è bello che ci sia già il ritorno appunto con ex studenti che raccontano. È di fatto anche l'inizio dell'anno scolastico, comunque da poche settimane, quindi per voi è un punto, è occasione per fare il punto, ma anche per rilanciare il nuovo anno. Quali sono state le sensazioni che più hanno risaltato in questi giorni di incontro? Sì, una occasione da cogliere al volo per tutte le scuole, perché essendo mobilità virtuale, essendo gemellaggio a distanza, permette agli insegnanti e studenti e alle scuole di collaborare, di sentirsi veramente in Europa senza muoversi dalla loro classe, e quindi diciamo che è aperta veramente a tutti, veramente a tutte le scuole, e questa è un po' la portata innovativa di eTwinning, una piattaforma che è per tutti gli insegnanti e per tutte le scuole. Ora il focus è soprattutto sull'inclusione, sul sentimento di cittadinanza europea, che deve essere rafforzato proprio in coincidenza con i fatti, diciamo, di cronaca più attuali, una scuola che è sempre più multiculturale e deve essere aperta al confronto e alla partecipazione di tutti. 25.000 docenti italiani coinvolti, oltre 300.000 insegnanti a livello europeo, quindi numeri grandissimi ormai per il twinning, che veramente riesce a coinvolgere tantissimi studenti. E mi sembra importante anche questo desiderio di trovare linee comuni, comunque traguardi comuni, non solo l'incontro ma anche grandi tematiche da affrontare. Massimiliano, invece, i punti critici quali sono? Perché ne parliamo sempre appunto esprimendo quelli che sono i lati migliori di questo progetto. Ci sono però anche criticità che da risolvere? Diciamo che soprattutto forse nel nostro paese c'è un po' di timore nell'avvicinarsi alle nuove tecnologie e all'utilizzo degli strumenti tecnologici in classe, e questo per alcuni insegnanti è ancora un tabù, diciamo che ecco, eTwinning, la portata innovativa è anche quella di essere comunque fruibile anche con delle basilari conoscenze tecnologiche o di lingue straniere, perché anche lì molti si spaventano perché non pensano di non saper comunicare in inglese, ma questo non deve essere un limite, perché la piattaforma eTwinning è in tutte le lingue e le conoscenze tecnologiche sono davvero basilari per poter cominciare a lavorare, avvicinarsi al mondo di eTwinning e dei progetti europei in generale. Quindi quello che mi sento di dire è: avvicinatevi senza paura, provate, perché veramente non costa nulla e può cambiare di un insegnante oltre che dei suoi alunni. Certo, e poi c'è un ottimo supporto anche dall'unità nazionale di cui tu fai parte, quindi è giusto e bene ricordare anche questo. Noi siamo qui per questo, siamo presso l'agenzia Erasmus di Indire a Firenze e siamo sempre disponibili per supportare e aiutare i docenti che vogliono provare con eTwinning. conference10.etwinning.net è il sito della conferenza, da cui c'è anche il blog per poter seguire, anche se si stanno ultimando i lavori in streaming tutta la conferenza. Grazie davvero Massimiliano, buon lavoro! Grazie a voi, un saluto a tutti. Buon sabato. Un euro post-it, ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Trieste Science and Fiction. Attenzione appassionati di fantascienza, anche quest'anno Trieste ospiterà il festival che stavate aspettando. Dal 3 all'8 novembre, infatti, tornano il Trieste Science and Fiction e la convention annuale della European Fantastic Film Festivals Federation. Per l'occasione, il 6 novembre, avrà anche luogo la 19esima cerimonia di attribuzione del prestigioso Méliès d'Oro 2015, unico premio organizzato attraverso la collaborazione di festival a livello europeo. Tra i tanti eventi e le proiezioni in programma, anche lo show dei Goblin di Claudio Simonetti, che celebrano i 40 anni di Profondo Rosso di Dario Argento, suonando dal vivo la colonna sonora. Per consultare il programma visitate il sito ufficiale sciencefictionfestival.org. L'altra Europa. Sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia per seguirmi su Twitter e Facebook, oppure chiocciola Euronet Plus R24. Lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, ma tutto ciò poi lo potete riascoltare e ritrovare anche sul nostro sito radio24.it nelle pagine dell'altra Europa. Andiamo a scoprire, come facciamo abitualmente qui all'altra Europa, progetti europei. Il progetto di cui vi sto parlando è un progetto molto particolare, un progetto ambizioso, un progetto che si pone tra gli obiettivi quello di ricreare un nuovo modello di sostenibilità, un governo multilivello per uno sviluppo integrato sostenibile delle regioni che prevede lo scambio di esperienze e buone pratiche per i territori. Progetto che vede come capofila la città di Castello e l'Umbria e vede coinvolte invece altri paesi, Francia, Romania, Germania, Bulgaria. Sono queste le zone, le nazioni coinvolte nel progetto europeo Muster. Ne parliamo con Karl Ludwig Schiebel, coordinatore dell'Agenzia delle Utopie Concrete. Ciao Karl, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Buongiorno a te. Da dove partiamo? Intanto, cos'è l'Agenzia delle Utopie Concrete? È un'agenzia che è nata nell'88, lontano l'88. Le utopie concrete che noi presentiamo esperienze, soluzioni di una conversione ecologica, concetto che è molto popolare da quando è uscito l'enciclica di Papa Francesco, di come produrre, distribuire, smaltire, consumare in modo sostenibile. Mm-hmm. E la nostra attenzione particolare è sui territori e uno sviluppo locale capace di futuro. Tu sei sociologa, hai insegnato ecologia sociale all'Università di Francoforte, ma da anni ormai sei in Italia e in particolare a Città di Castello, dove... Da molti anni, sì, ho insegnato l'ecologia sociale, ma adesso ci dedichiamo a applicare le soluzioni, sperimentare le soluzioni sul luogo. Uh-huh. La parola utopia è una parola pericolosa, vuol dire che sono progetti irrealizzabili? No, ma adesso io parlavo di utopia concreta, questo non è il nostro concetto, è un concetto di un filosofo tedesco, Ernst Bloch, che parlava delle cose che nessuno fa, in questo senso sono utopie, e che sono perfettamente fattibili, in questo senso utopie concrete. Per esempio una mobilità sostenibile è una cosa perfettamente fattibile, ci sono gli esempi, ma lo stesso in Italia la fissazione sull'automobile continua anche a far sì che molti centri storici che facilmente potrebbero essere chiusi agli automobili sempre le macchine girano, quindi è una utopia concreta. Andiamo a parlare di questo progetto europeo finanziato nell'ambito di Europe for Citizen. Muster.europe.eu è il sito per conoscerlo nel dettaglio, ma di cosa si tratta? Sono cinque città europee che sotto la guida del comune di Città di Castello si sono messe insieme, Joël-le-Tour in Francia, Lörrach in Germania, Smolian in Bulgaria e Sighișoara in Romania e Città di Castello, per costruire la base, una piattaforma per una collaborazione a lungo termine. Quindi questo progetto, che dura 2 anni, viene finanziato per individuare quali sono i campi in cui noi le cinque città vogliamo collaborare, e questo primo incontro che abbiamo avuto in questi giorni serviva proprio come partenza per individuare dei tavoli tematici, in dei scambi, quali sono i campi di interesse. Certo, sono città con cittadine, con caratteristiche comuni? Sì, sono caratteristiche comuni in parte. Prima, che sono tutte delle città di più o meno 40.000 abitanti, perché le grandi città, New York, Roma, Berlino, Parigi, Vienna, hanno molto meno bisogno di fare rete, perché sono delle entità a sé stanti che hanno un peso, un potere economico, politico. Le città medie e piccole invece fanno molto bene di mettersi insieme per garantire un loro sviluppo. Prendiamo l'esempio, un problema in comune, anche se si esprime in modo molto diverso in queste città, e con l'eccezione di Lörrach in Germania, che le città stanno perdendo abitanti. Sì. Qualcuno più velocemente, Sighișoara una volta 36.000, oggi siamo a 28.000. Qualcuno più lentamente, mettiamoci dal Castello, è solo l'afflusso degli immigrati che rende il numero di abitanti stabili, quindi cioè, rivitalizzazione del centro storico, dei servizi e delle infrastrutture che sono attraenti ai giovani che non vadano via. Questi sono i temi che accomunano queste città, dove mettiamo l'Erach potrebbe anche contribuire, ma voi come siete riusciti di non avere questo problema? Mm-hmm. Insomma, questo è importante anche per contestualizzare bene il progetto. Vi ricordo le coordinate digitali: www.musterlineettaeurope.eu è il sito del progetto, oppure il sito dell'Agenzia delle Utopie Concrete, utopieconcrete.it. Tutto ciò lo ritroverete anche nel nostro Facebook e nelle nostre pagine Twitter. Grazie Carl, buon lavoro. Grazie molto, grazie. Ciao. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Opportunità di tirocinio al Consiglio d'Europa. Siete interessati a fare esperienza nel campo della promozione dei diritti umani e della democrazia? Il Consiglio d'Europa offre l'opportunità di svolgere tirocini in attività di ricerca, preparazione di bozze e documenti per incontri di esperti e stesura di verbali, nella sede centrale di Strasburgo. I candidati devono essere laureati appartenenti a uno degli stati membri del COE e possedere una conoscenza approfondita di inglese e francese. I tirocini durano dai 2 ai 5 mesi e si svolgono tra marzo e luglio e tra settembre e gennaio. Per candidarsi alla sessione primaverile, scrivete all'indirizzo mail traineeship.drh@coe.int entro il 28 novembre. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento l'altra Europa. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died. 10 anni di lavoro e di ricerca, un migliaio di incontri e altrettanti ritratti fotografici. Questo è il backstage, questo è il lavoro che c'è dietro a una mostra che verrà inaugurata domani a Trieste, domani mattina alle 11, intitolata Partigiani di un'altra Europa. 55 volti selezionati e stampati per raccontare un pezzo importantissimo della storia della nostra Europa. L'autore di questa mostra, di questo bellissimo lavoro, è il fotografo Danilo De Marco, che è qua con noi. Ciao Danilo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Siamo collegati nel nome da questa Altra Europa che ci piace raccontare. Tu hai scelto di farlo attraverso questo lavoro e questa scelta stilistica anche molto forte. 55 volti, quasi 55 foto segnalettiche di persone protagoniste di questa Europa. Sì, non potevo non fare questo, visto che sono nato in mezzo. Scusate un istante, sento un rimbombo di voce che mi torna. Probabilmente sono hai il viva voce? No. No, assolutamente. Riusciamo ugualmente Ma io provo a parlare, spero di non perdermi. Va bene. Ok, sì, ecco, allora. Niente da fare, mi sembra un mattino. Proviamo a richiamarti al volo. Dai, metti giù che ti richiamiamo al volo. Questa è la diretta. Intanto colgo l'occasione per dire adesso i titoli di coda, visto che poi avremo pochissimo tempo. Radio 24, l'Altra Europa. Ringrazio Claudia Scatone, Roberta Frisani oggi in assistenza, Mirma Lucchetti e Silvia Righini con me hanno scritto la puntata. L'altra Europa è radio24.it, invece la nostra mail, se volete contattarci durante la settimana, oppure mi trovate sui vari social network, Facebook e Twitter. Il mio account è Federico Taddia. Questi titoli di coda, nel frattempo abbiamo tentato di ritrovare Danilo De Marco, vediamo, ecco, se la linea telefonica ci aiuta. Eccoci qua, ciao Danilo. Funziona meglio, benissimo, funziona meglio. Ottimo. Okay. Mi pare che ci siamo. Allora, da dove nasce questo lavoro? Ma nasce dalla mia esperienza giovanile, visto sono nato in mezzo a questi uomini, queste donne, per caso, poi il caso sembra abbia sempre una causa, nulla nasce per caso, sempre causa e caso si collegano. Per cui mi sono trascinato questa conoscenza infantile fino ai miei 70 anni. Mm-hmm. E avendo anche conosciuti di persona e aver parlato a lungo con loro negli anni che furono, ormai sono quasi tutti morti, ho capito presto che quello per cui avevano combattuto, quello in cui sognavano quando eravamo giovani in montagna, diventando partigiani con un'idea anche dopo essere saliti in montagna, solo per rifiutare una dittatura, ecco, questo mondo che avevano lottato non c'era. Mm-hmm. Era svanito pochi anni dopo, 45, che poi era un mondo anche non solo nazionale, perché non combattevano solo per l'Italia, per la Francia, per la Spagna o per l'Jugoslavia, ma per l'Europa, già, per un mondo nuovo, per un'Europa, per un mondo nuovo. Come mai che hai scelto di chiamarla l'altra Europa? Ma è un'altra roba, perché questa non ci piace. questa non ci piace per niente, e credo che l'Europa ormai sia una cosa importantissima, però non questa, un'Europa dove la fratellanza, dove il restituire a questi popoli che stanno arrivando ora, tra l'altro io sono più che convinto che questa grande migrazione, che non è nella prima e non sarà neppure l'ultima, abbastanza epocale, l'Europa sarà solo se questa emigrazione verrà accolta in Europa, se noi riusciremo a dare un po' di spazio a loro, che hanno tutto per il diritto e noi abbiamo tutti quanti debiti verso di loro altissimi, solo così l'Europa sarà. Senza di loro l'Europa è destinata a morire, non ci sarà più. Sono loro la nuova Europa insieme a noi. Danilo, sono, dicevo prima, volti molto grandi, sono delle gigantografie quelle che sono in questa mostra. Sì, 1,10 x 1,30 m. Volti arrabbiati, volti delusi, volti rassegnati, che tratto sei andato a cogliere? Ma io, dopo, chi vedrà sta mostra deciderà volta per volta di darci una risposta. Ma io ho voluto cogliere in pochi minuti di ripresa fotografica, perché stavamo di più a parlare sui tavoli con delle bottiglie, magari anche di qualche bicchiere di vino, e le riprese si riducevano a pochi minuti. Ho cercato di raccogliere, bella domanda, un po' difficile, quando mi accadeva di cogliere qualcosa nel momento in cui stavo per scattare e che mi sembrava che nel momento giusto lo facevo, scattavo, soprattutto gli occhi in ogni caso. Sì, gli occhi, questa anima del questa finestra sull'anima delle persone, mi sembra siano i più adatti a spiegare una situazione. Occhi di anziani, che tutti hanno da 80 anni in su. Mm-hmm. C'è qualcuno che arriva anche ai 100 anni. Immagino... Ma a guardarli bene mi sembrano più giovani loro che questo mondo che ci circonda attualmente, con più voglia di vivere, con più voglia ancora di lottare. Mm-hmm. Ecco, una cosa che mi pare giusto dire è la messa a fuoco solo sugli occhi, e subito dopo, davanti e dietro, la messa a fuoco c'è lo sfocato dei piani della vita, come se il passato e il futuro fosse il passato dimenticato e il futuro quasi senza grandi speranze. Certo. E questo presente di queste persone anziane invece è il momento ancora della vita. Poi ognuno deve assolutamente leggere a modo suo. E sono riuscito a dire qualcosa, insomma. Questo sguardo sull'altra Europa, una selezione immagino difficilissima tra le tante storie, riuscirei a estrapolarne 55, però ti chiedo, ma proprio in pochi secondi, c'è una storia che secondo te più di altre racconta questo lavoro, racconta questo progetto, racconta cosa significa? Sì, anche se magari sono un po' tutte, però una particolarmente potrei dire di sì, il partigiano, l'uomo con cui sono cresciuto fin da piccolo, si chiamava Sergio Cocetta, nome partigiano, El Cid Campeador, per ragioni di guerriglia ridotto a CID, perché era troppo lungo per chiamarsi nelle foreste, nei boschi, nella montagna. Sì. Ecco, credo che questo sia stato assolutamente la presenza della violenza, ma non perché partigiano e basta, perché anomalo anche all'interno del mondo partigiano. Era un deviante anche all'interno di questo mondo resistenziale, perché aveva capito subito che la resistenza non era terminata, aveva capito subito che si è partigianista, non si può mollare mai, che ogni generazione deve lottare per la propria dignità, per la propria libertà, non c'è nulla regalato e nulla dato per scontato. Un uomo che poi è stato in Cecoslovacchia per 10 anni in esilio, ha dovuto andarsene, ha pagato anche duramente, essendo comunista lui, ma in Cecoslovacchia l'hanno messo a lavorare nelle miniere, quindi ha pagato un doppio prezzo, una doppia resistenza. Ecco, credo che questa figura di uomo deviante, termini che spero mi sia capito questo, certo, termine, deviante, sia la figura cuore di tutto questo lavoro. Grazie davvero. Ricordiamo, danilodemarco.it è il sito di Danilo, appunto, oppure il sito della mostra, che è partigianidiunaltraeuropa.it. L'inaugurazione domani, domenica 25 ottobre, la mostra rimarrà aperta fino all'8 dicembre, Palazzo Gopcevic a Trieste. Grazie davvero, Danilo, complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie a tutti, ciao. Questa è l'altra Europa, chiudiamo qua, un grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è a sabato prossimo, ciao.